Io e Matteo di Ernesto Granese. Episodio numero 53. Il professore con la sciarpa rossa. Letto da Alberto Stani. Approdati al quarto anno delle magistrali, l'ultimo prima della maturità, io e Matteo avevamo già deciso cosa fare dopo. Di sicuro c'era che né io né lui avevamo intenzione di diventare maestri. Io, deluso e disgustato da tutto, dalla scuola alla politica, fino ai recenti fallimenti sentimentali, meditavo già di andarmene. Non sapevo bene dove, né perché. Forse alla ricerca di un cambiamento non meglio definito, di una vita più autentica o semplicemente di un'alternativa. Sognavo di scoprire un nuovo mondo, culture diverse, incontrare gente nuova, trovare migliori opportunità di lavoro e, soprattutto, imparare l'inglese, una lingua importante della quale allora non sapevo nemmeno una parola. O forse, più semplicemente, avevo solo voglia di cambiare aria e andare a vedere qualche concerto. Mi era stato detto che le ragazze in Inghilterra erano più moderne e disinibite, leggasi. La danno senza fare troppe storie, ma con il mio inglese praticamente inesistente, le mie chance di ottenere qualcosa in quel senso erano pari a zero. Matteo, invece, aveva tutt'altro per la testa. Dopo aver abbandonato la militanza nei gruppi della sinistra extraparlamentare, si era avvicinato al torbido mondo della lotta armata. Nessuno di noi sapeva esattamente cosa avesse in mente. Per la prima volta nella mia vita ebbi l'impressione che non si fidasse nemmeno più di me. Venni a sapere solo in seguito che aveva iniziato a frequentare una cooperativa a Busto Arsizio, dove gravitavano diversi esponenti di movimenti legati alla lotta armata: autonomia operaia, potere operaio, azione rivoluzionaria, prima linea e simili. Ma tutto questo era ancora in divenire, perché sia io che lui eravamo ancora alle prese con l'ultimo anno delle magistrali. In quell'anno, il 1975, ci furono importanti novità a partire dall'arrivo di alcuni professori nuovi. Ricordo in particolare il professor Ferrini di storia e il professor Balestrieri di musica. Era l'autunno del nostro ultimo anno alle magistrali, un tempo di passaggio sospeso tra l'adolescenza e l'incertezza dell'età adulta. Fu allora che arrivò il professor Ferrini. Ricordo ancora quel giorno. Entrò in aula con passo deciso, il cappottino grigio aperto su una sciarpa rossa, una pipa tra le dita e un cappellino che sembrava rubato a un vecchio ritratto di Lenin. Aveva un'aria impacciata ma determinata, da uomo abituato a camminare controvento. Era basso, tarchiato, con i capelli castani arruffati e gli occhi neri, vividi, che si muovevano con intelligenza dietro gli occhiali spessi. Ci osservò per qualche secondo in silenzio, poi iniziò a parlare di storia come fosse vita vissuta, sangue, carne, scelta morale. Capimmo subito che non era un professore come gli altri. Ferrini era un marxista convinto e non lo nascondeva. Parlava con entusiasmo della resistenza, della Costituzione, del ruolo degli studenti nella trasformazione della società. In occasione del 25 aprile ci portò in classe i testi delle canzoni dei partigiani. Ci fece cantare «Bella ciao, la brigata Garibaldi, fischia il vento». Ma non era solo folklore, era educazione civile, memoria viva. Nel cantare quelle canzoni, nei racconti dei giovani che avevano scelto di combattere per la libertà, noi trovavamo un riflesso del nostro stesso bisogno di giustizia, del nostro disprezzo per l'apatia degli adulti, per il grigiore della scuola, per le mezze misure. Certo, alcune sue idee ci parevano un po' datate, Parlava ancora di patria, bandiera, orgoglio nazionale, termini che per noi suonavano ambigui, quasi reazionari, eppure a modo suo Ferrini riusciva a dar loro un senso nuovo, a farli convivere con i nostri ideali più freschi: libertà, eguaglianza, partecipazione. Partecipava spesso alle assemblee studentesche, parlava con franchezza, non ci adulava né ci sminuiva, diceva le cose come stavano, anche quando non erano comode. Una volta, ricordo, disse davanti a tutta la scuola: «Quello che sta accadendo oggi nella nostra scuola, la rivolta degli studenti, ha un valore straordinario per la causa della democrazia». Detto da un professore in quel contesto, era più di una dichiarazione, era un gesto politico. Nonostante la simpatia per le nostre lotte, Ferrini non era indulgente. Pretendeva molto da noi e otteneva risultati, non con autorità, ma con autorevolezza. Ci trattava come persone, non come numeri. Conosceva i nostri nomi, le nostre fragilità, i nostri sogni. La sua passione per la storia era autentica. Ci faceva lavorare su fonti, documenti, dibattiti. Nessuna lezione era uguale all'altra e soprattutto mai ci impose una verità. Ci offriva strumenti per pensarla da soli. Con Matteo instaurò un rapporto particolare, lo stimava, ma intuiva anche il rischio che stava correndo. Non so se cercò di fermarlo, forse lo fece, a modo suo, con quelle lezioni dense di etica e discernimento. Ma a un certo punto Matteo prese la sua strada. Dalla militanza giovanile passò, quasi senza transizione, alla lotta armata. E Ferrini, anche se forse non lo sapeva, ebbe un ruolo in quella trasformazione. Io, invece, restai più a distanza. Cercavo ancora una via d'uscita, un treno verso il nord. A distanza di tanti anni, il volto del professor Ferrini è ancora vivo nella mia memoria. Non tanto per ciò che ci insegnò, quanto per come lo fece, con passione, con coerenza, con la forza gentile di chi credeva davvero nelle parole che enunciava. Ci ha cambiati, tutti, alcuni solo un po', altri per sempre. Il professor Balestrieri. L'istituto magistrale di Varese, ai tempi nostri, era una fortezza del passato. Un luogo intriso di muffa pedagogica e conservatorismo, amministrato da una schiera di docenti ormai logorati dal tempo, più inclini a perpetuare un ordine morto che a educare spiriti vivi. Con rare eccezioni, sembrava abitato da un'orchestra stonata di vecchi tromboni, incapaci di emettere una sola nota di creatività o intelligenza autentica. Per noi giovani comunisti, animati da un entusiasmo spesso ingenuo ma sincero, la rivoluzione che sognavamo passava anche da lì, dalle aule, dai registri, dai corridoi ingialliti della scuola. Più che un sovvertimento, si trattava di un necessario svecchiamento. Fuori i baroni, via i parrucconi impolverati, largo alle idee nuove, proclamavamo con l'ardore tipico dei diciottenni, mescolando idealismo e rabbia generazionale. Può darsi che fosse giovanilismo da quattro soldi, come lo avrebbero definito con disprezzo i nostri detrattori. Ma a noi pareva assurdo, persino offensivo, che una casta docente formatasi nel dopoguerra continuasse a dettare legge sulle nostre teste, ignorando del tutto le trasformazioni culturali, sociali, perfino linguistiche che stavano investendo il paese. Vedevamo nella scuola non solo un'istituzione da contestare, ma un terreno di battaglia per la modernità. A dire il vero, il nostro preside, il professor Paolo Miani, pur essendo un uomo di altri tempi, godeva di una certa fama come filosofo e sostenitore delle riforme scolastiche. Ma il suo spessore teorico raramente si traduceva in pratiche concrete. Nella vita quotidiana dell'istituto era un burocrate stanco, spesso assente, timoroso dei conflitti, incapace di cambiare davvero le cose. Il caso più emblematico del degrado in cui versava l'istruzione pubblica era rappresentato dal nostro insegnante di musica, il famigerato professor Balestrieri, un uomo prossimo alla pensione, dalla figura rigida e l'aria perennemente arcigna, mediocre pianista e pessimo insegnante. Le sue lezioni erano un supplizio, teoria musicale ripetuta come una cantilena, esercizi meccanici, nessuna traccia di creatività, né tantomeno apertura alla musica contemporanea. Anzi, il rock, per lui, era la quintessenza del male moderno. Lo definiva senza mezzi termini una barbarie, un contagio sonoro, una degenerazione morale che corrompeva la gioventù. E io, che avevo il culto dei Beatles, degli Stones e di tutta la scena psichedelica, divenni presto il suo bersaglio preferito. Il mio solo esistere lo irritava. Alla fine di quell'anno scolastico, fui l'unico a essere rimandato a settembre in musica, una vera e propria umiliazione. Non tanto per la materia in sé, che avrei volentieri archiviato per sempre, ma per il significato simbolico di quella bocciatura. Era una condanna, un atto di disprezzo personale, una piccola vendetta di un uomo incapace di comprendere i tempi che cambiavano. Quando, qualche anno più tardi, appresi della sua morte improvvisa, non posso negare di aver provato una sensazione ambigua. Non gioia, certo, ma neppure tristezza. Forse solo la sensazione che si fosse conclusa un'epoca fatta di illusioni, teorie bizzarre, arroganza giovanile, prepotenza e intolleranza ingiustificate. Confesso, con un misto di ironia e imbarazzo, che in quel momento mi tornarono alla mente gli improperi che noi studenti gli avevamo lanciato nel corso degli anni. La vendetta, a volte, ha il sapore amaro. Intanto, il 1975 si avvicinava. Nuovi scenari si profilavano all'orizzonte. Il cambiamento era nell'aria, ma nessun evento scolastico o politico, per quanto significativo, avrebbe mai potuto oscurare l'evento più importante per me, la mia storia d'amore con Maria. Fu una storia d'amore platonica, ma intensa e struggente. Nessuna passione consumata, nessun letto condiviso. Eppure fu per me un'esperienza profonda. Avevo da poco compiuto 18 anni ed ero ancora vergine. Matteo, naturalmente, scopava come il proverbiale riccio, come si diceva tra noi, con una certa invidia. E mentre io vagavo fra le canzoni di De André e le avventure di Robinson Crusoe, lui era un treno in corsa. Sesso e lotta armata, che Dio lo fulmini!